Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, numerose notizie che arrivano e riguardano grandi gruppi a livello internazionale, i conti di Citigroup, altro uno dei colossi americani nel mondo finanziario, pesantemente colpito dalla crisi, ha ottenuto infatti quasi 50 miliardi di aiuti di Stato, ma anche il fallimento, la richiesta, diciamo, di bancarotta protetta, quindi diremmo noi una bancarotta guidata da parte di Japan Airlines, quindi compagnia di bandiera nipponica, e con 15.000 posti che però all'interno di questa bancarotta protetta salteranno. E poi anche la notizia che si è conclusa, come già si intuiva ieri, l'operazione che vedrà la Kraft comprarsi il colosso del settore alimentare britannico Cadbury. Ne abbiamo parlato molte volte, anche perché vi era stato un interesse mai esplicitato fino in fondo, ma molto ventilato da parte di Ferrero, che avrebbe dovuto per questo essere aiutata anche da un'accordata da un fondo americano e da un'accordata di banche italiane. Ferrero poi ha desistito e la Cadbury se la compra la Kraft, che però ha dovuto alzare il prezzo, ha dovuto pagare, offrire 19 miliardi di dollari, scusate, alzando appunto l'offerta che inizialmente era di 17 miliardi di dollari, 2 miliardi di dollari in più. Ancora di questo parleremo nel corso del programma. Parleremo anche del prezzo della pasta. Già questa mattina se ne è occupata Deborah Rosciani. In realtà oggi, dopo l'incontro tra il mister Prezzi e i produttori di pasta, è emerso che l'indagine avviata dal mister Prezzi, come si chiama in gergo il responsabile dell'osservatorio Prezzi, ha registrato cali nel prezzo della pasta al consumo, quindi quando la compriamo noi, del 5,7%, ma cali all'origine del 22%, 22,7%. Ci sono 15 punti percentuali che ballano, però l'Unione Pastai ha respinto al mittente l'accusa che esista un cartello nella pasta. Ancora, per quello che riguarda i temi, apriremo con il vertice Ecofin / Eurogruppo, perché si discuteva di Grecia, ma anche di possibile tassazione dei rischi finanziari presi dai colossi bancari sulla scia di quanto è accaduto già negli Stati Uniti, e poi anche chiaramente di tutto un insieme di conti pubblici dei vari paesi che aderiscono all'euro e all'Europa in generale. Continueremo poi con il settore dell'oro, perché si è aperta questa settimana la Vicenza Oro, è la più importante manifestazione dell'oro in Italia è una delle più importanti al mondo. Noi siamo infatti leader in molti settori che riguardano l'arte orafa, e comunque siamo tra i primi 2-3 produttori, lavoratori chiaramente, di oro, non certo estrattori, ed è un'occasione anche per capire come va un mercato molto delicato che ha visto la materia prima, lo ricorderete, toccare record storici, ma deve fronteggiare comunque gli effetti di una crisi che colpisce anche il settore del cosiddetto lusso. Ancora parleremo, oltre che di pasta e di oro e di Cadbury, di vicende che riguardano sostanzialmente la cronaca finanziaria, e quindi qui apriamo la parentesi sulla borsa: più 0,8% in questo momento Milano, più 0,90% Parigi, più 1% Francoforte, più 0,60% Londra, con l'America ieri chiusa per festività che oggi nella prima seduta settimanale guadagna lo 0,72%. Si continua a indebolire l'euro a 1,4280. Da quello che si capisce, il motivo continua a chiamarsi Grecia. E anche oggi la borsa di Atene ha conosciuto una giornata bella movimentata. Dopo un'apertura inizialmente favorevole, è arrivata a perdere oltre il 2%. Ultima cifra che devo dare, poi andiamo alle notizie in breve, quella per i vostri sms: 349-238-6666. Allora, partiamo come sempre con il petrolio, poi arriviamo a Citigroup e a Japan Airlines. Allora, per quello che riguarda la quotazione del petrolio, siamo di nuovo in calo a 76,9 dollari al barile. Per quello che riguarda invece i titoli, visto che già ce li chiedete, che vanno meglio o peggio oggi in borsa. Parmalat più 3,4, Autogrill più 2,80, Buzzi Unicem più 2,3, Unicredito più 2,2, Ubibanca più 1,6, A2A più 1,5, Banco Popolare anch'esso più 1,5 con Mediobanca, Generali più 1,3, Intesa più 1,1, Mediaset pure, e Atlantia guadagna un punto percentuale come Monte dei Paschi. Bene, oggi quindi tutti bancari. Sul fronte opposto Italcementi perde l'1,1, poi poca roba. Prismian meno 0,90, Finmeccanica meno 0,6, Popolare di Milano perde mezzo punto percentuale, così come Eni. CIR perde lo 0,3%. Il miglior titolo in assoluto, Mondo TV più 14%, e Mondo Home Entertainment più 7%, Indesit più 7%, Risanamento più 4,6%. Peggior titolo, di nuovo sotto pressione, Antichi Pellettieri meno 4,9%, Green Vision meno 2,80%, poco altro. Terni Energia perde 5,1%. E allora, i dati di Citigroup che hanno ben influenzato il settore bancario in Europa. Perché? Perché ha perso anche nell'ultimo trimestre del 2009 il colosso americano Citigroup. Prima della crisi era considerata la banca più importante in America quanto banche, in quanto volume. Comunque ha perso 7,6 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre dell'anno. Peggiore risultato delle attese. Significa una perdita di 33 centesimi di dollaro per azione. Però attenzione, perché il dato detto così è un po' così, inganna. In realtà Citigroup ha dovuto sostenere un onere pretasse di 8 miliardi quando a dicembre ha restituito al tesoro americano 20 miliardi dei quasi 50 miliardi che aveva ottenuto per essere di fatto salvata un anno fa. Il tesoro americano comunque mantiene ancora 25 miliardi di dollari che ha già convertito, hanno un valore attuale di 26,4 miliardi, e vorrebbero dire un utile di 1,5 miliardi di dollari. Domani uscirà l'attesissimo dato, dopodomani scusatemi, giovedì, di Goldman Sachs, che già, ricordo, il terzo trimestre aveva registrato utili record, 3 miliardi e passa, con questa famosa polemica per i 12 miliardi già accantonati per i bonus ai manager. Venerdì scorso invece è uscita JP Morgan, anch'essa utili quadruplicati a 3 miliardi e 3, soprattutto per la parte di investment banking, mentre stava in rosso il comparto carte di credito e quello retail, quindi per la clientela comune. E ha parlato anche il numero uno di Citigroup, Vikram Pandit, ha detto: abbiamo fatto grandi progressi nel 2009, rafforzato il capitale, rifocalizzato la nostra strategia, entriamo nel 2010 più capitalizzati, più efficienti e più concentrati sui nostri clienti. Allora, il fallimento di Japan Airlines. Praticamente il Consiglio di Amministrazione ha depositato la richiesta di bancarotta protetta, dovrà rinunciare a un terzo dei suoi dipendenti, stiamo parlando di 15.600 esuberi, tagli, licenziamenti, e praticamente il piano di rilancio avverrà attraverso l'iniezione di capitali pubblici per circa 2 miliardi e 300 milioni di euro. E poi verranno cancellate molte rotte, 14 rotte internazionali e 17 nazionali, e poi il delisting, quindi verrà tolto dalla borsa il titolo Japan Airlines a partire da dopodomani. Di Cadbury, che diventerà Kraft, che diventerà appunto di proprietà della Kraft, abbiamo già detto, e torneremo a parlarne anche perché il primo ministro inglese Gordon Brown ha detto: attenzione, noi proteggeremo i posti di lavoro in Gran Bretagna. Sono 6.000 i dipendenti britannici di Cadbury. E del prezzo della pasta parleremo tra un'ora, ma vi abbiamo già accennato. Ancora due notizie in breve e poi partiamo con l'Unione Europea. Allora, per il 2009, per l'agricoltura italiana è stata una vera e propria debacle, ne abbiamo parlato molte volte anche con gli agricoltori, con il ministro. Insomma, i prezzi praticanti sui campi, quindi prezzi alla produzione agricola, sono crollati per meglio dire dell'11% rispetto al 2008, mentre sono aumentati i costi produttivi, quelli contributivi, i costi burocratici, con un aumento del 10%. Praticamente i redditi degli agricoltori sono scesi in picchiata, meno 25,3%. Praticamente nell'Unione Europea dietro di noi ci sono soltanto gli ungheresi quanto a crollo dei redditi agricoli, e poi gli italiani, quindi il dato peggiore di tutta l'Unione Europea. Una notizia che arriva dalle Ferrovie dello Stato: secondo quanto ha affermato l'amministratore delegato Mauro Moretti, per metà del 2010 aumenteranno i collegamenti per gli scali aeroportuali di Frecciarossa e le ferrovie contano di portare presto Frecciarossa all'aeroporto di Malpensa. Sarebbe oggettivamente una misura che più volte modestamente abbiamo suggerito, anche perché in Francia tutti i treni ad alta velocità passano negli aeroporti principali. Mi sembra, diciamo, una cosa di buon senso oltre che di pratica europea. Comunque, partiamo con il primo tema. A Bruxelles, riunione ieri sera dell'Eurogruppo, questa mattina del vertice Ecofin. Primo tema, Atene. Secondo tema, tassare anche noi, come ha fatto Barack Obama, le esposizioni, diciamo, finanziarie delle banche, quindi i rischi finanziari, e poi trovare un tetto comune per i bonus ai manager bancari europei. Già ieri sera il Joaquín Almunia, il commissario europeo agli affari economico monetari, aveva detto che le misure prese in Europa sono adeguate, e Jean-Claude Juncker, presidente dell'Eurogruppo, ha detto la Grecia adesso, Jean-Claude Juncker ha detto la Grecia adesso deve reagire perché i problemi greci sono problemi dell'intera zona euro. Oggi rassicurazione dal presidente di turno dell'Ecofin, quindi la ministra spagnola dell'economia Elena Salgado, ha detto che non ci sono rischi default di fallimento per la Grecia, Atene farà tutto il necessario per evitare il fallimento e verrà insediato in maniera permanente nell'Istat greco un esperto di Eurostat. E partiamo da questo primo tema con la corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, Adriana Ceretelli. Adriana, buonasera. Buonasera. Allora, diciamo, le rassicurazioni sono d'obbligo, però certo che è abbastanza umiliante per un paese sovrano come la Grecia vedersi obbligata ad accettare un membro di Eurostat dentro la sua Istat. Che cosa è successo? Lo dico agli ascoltatori: si è scoperto che i conti greci erano taroccati, truccati, non solo l'anno scorso, con una cosa veramente da scuola dell'obbligo, cioè avevano detto che il deficit era al 3,9 e poi si è scoperto che era al 13%, ma anche negli anni precedenti. E allora dicono: avete fatto i birichini, non siete più affidabili, vi mettiamo dentro una maestra di sostegno, diciamo così, per guardare i vostri conti. Al di là delle rassicurazioni, Adriana, però, tu che parli anche nei corridoi, diciamo, off the record, quanto preoccupati sono ancora i vari ministri europei e comunque la Commissione europea della situazione greca? Ma direi che la preoccupazione è generalizzata ed è una preoccupazione anche greca, ovviamente. Questa sorta di commissariamento dell'ufficio greco di statistica è un qualche cosa che è stato voluto dai greci stessi, perché in questo modo possono, diciamo, sperare di recuperare credibilità e dunque di rassicurare i mercati, perché in questo momento la priorità numero uno è rassicurare i mercati per evitare che un avvitamento della situazione greca sui mercati finisca per portare a livelli astronomici il costo di rifinanziamento del debito. Quindi direi che in questo momento c'è una condivisione assoluta tra greci e paesi dell'Eurozona nel tentare di tamponare la crisi e recuperare appunto un minimo di stabilità della reputazione greca sui mercati. Adriana, vorrei capire una cosa, cioè, l'euro sta soffrendo per questo, però sappiamo che da un punto di vista dei produttori tedeschi e italiani che molto esportano, un euro un po' più debole potrebbe anche non essere così male, però è sceso a 1,42 per via soprattutto della dinamica greca. Si è discusso anche di altri paesi a rischio, voglio dire, la cosa peggiore in questo momento è fare così discorsi da bar, ma molto si è parlato dell'Irlanda e anche in qualche modo della Spagna. ovviamente il problema della Grecia in sé potrebbe essere considerato quasi irrilevante, nel senso che il peso specifico dell'economia greca nella zona euro è modesto. Il problema è che un'eventuale mancanza di solidarietà o di coesione nei confronti della Grecia potrebbe lanciare un segnale politico e psicologico ai mercati che potrebbe mettere sotto pressione l'intera area euro dal punto di vista della credibilità della tenuta dell'euro. E in più c'è un secondo problema, che è quello a cui appunto si accennava. Non è solo la Grecia oggi in crisi, certo la Grecia è l'aspetto macroscopico di questa crisi, però tutti i conti di tutti i paesi dopo il biennio di crisi sono andati in tilt, e comunque ce ne sono alcuni particolarmente vulnerabili, che sono sicuramente l'Irlanda, poi il Portogallo e in certa misura anche la Spagna. Dunque il timore è un effetto a catena che potrebbe appunto mettere allora sì a repentaglio la stabilità dell'euro. Ecco, voglio dire, Adriana, sempre usando molta prudenza, però, e poi passiamo al tema delle tasse, eventuali tasse al mondo finanziario, comunque ritenute sui rischi presi, però a me quello che ha sorpreso è, insomma, che sia stato così facile, passami il termine, infinocchiare Bruxelles e a questo punto anche poi la Banca Centrale Europea. Cioè, gli ascoltatori scrivono al 349-238-6666, ma com'è possibile che un paese dia dei dati che sono completamente taroccati? Qui non stiamo parlando di qualche decimale, anche l'Italia, gli anni passati, in altri governi, disse: pensiamo di avere una crescita al 2, poi ai Tremonti dovete ricredersi. Vabbè, quello insomma fa parte delle previsioni, del gioco delle previsioni, ma qui hanno fornito dati che, voglio dire, ricordano veramente quanto di peggiore c'è in qualunque scuola del paese. Com'è stato possibile arrivare a questo? Cioè, le falle... La Grecia è entrata nell'euro non avendo i parametri di Maastricht a posto, quindi diciamo che c'è un vizio di origine. Il fatto che questo sia stato possibile è per la struttura stessa del sistema di raccolta dati statistici europei, nel senso che gli stati nazionali sono totalmente sovrani per quanto riguarda la raccolta delle statistiche. Eurostat in sostanza è una sorta di notaio. Comunque, su 10 notifiche, avvengono due volte l'anno, degli ultimi 5 anni, ben 5 notifiche sono state contestate da Eurostat, ma a parte la contestazione Eurostat non ha mai avuto né ha il potere di intervenire per controllare la veridicità dei dati. Quindi il fatto che possano essere state fornite cifre truccate è rimesso oggi, secondo le regole europee, semplicemente alla buona volontà e all'onestà di chi li fornisce. Però oggi, proprio per l'enormità del trucco greco, Almunia è tornato alla carica, il commissario europeo competente, per ripresentare una proposta che fu bocciata dagli stati membri nel 94, che era proprio una proposta che prevedeva di aumentare i poteri di Eurostat, dando la possibilità di meglio sorvegliare la raccolta dati nei singoli paesi nazionali. Ora bisognerà vedere se dopo lo shock greco i paesi membri saranno disposti ad accettare maggiori poteri di Bruxelles nel settore della raccolta delle statistiche, oggi è prettamente nazionale. Perché, come diceva Andreotti, a pensare male si fa peccato, ma ogni tanto ci si azzecca. Cioè, io non vorrei che tutti i paesi membri che sono finiti così sotto stress per via di questa crisi quanto a conti pubblici, voglio dire, vi ricordate il trattato di Maastricht? Beh, Maastricht in questo momento è semplicemente tornato ad essere un paese olandese, non se lo sta filando più nessuno perché non c'erano altre priorità. Quando tu hai Germania e Italia col 5%, Francia anche salta, non parliamo dei paesi fuori dall'euro, la tentazione di, così lo dico proprio in maniera maliziosa, di abbellire i conti potrebbe esserci. Ecco perché volevo sapere a quali misure di emergenza stanno ricorrendo i membri della Commissione Europea. Veniamo ai temi della crescita, in questo caso italiana, ma anche ai temi fiscali. Il ministro Tremonti sulla stima di crescita nel 2010 intorno all'1% e anche sul fatto che abbia minacciato il veto, cioè quindi di porre il veto all'interno dell'Unione Europea, per se non si chiarisce il sistema dell'euro ritenuta. Allora, l'euro ritenuta è quella cosa che ha creato molta tensione anche tra Italia e Svizzera, per cui i cittadini non i redditi finanziari dei non residenti possono pagare un'imposta in cambio come alternativa allo scambio di informazioni fiscali. Il problema è che la Svizzera ha trasferito all'Italia 89 milioni di euro l'anno scorso, come se in Svizzera ci fossero 30 milioni di euro depositati da italiani, e secondo l'Italia invece ce ne sono almeno 4 volte tanto, 125 milioni. Sentiamo Tremonti sul PIL e sulla minaccia di veto se non si fa chiarezza su come funziona l'euro ritenuta. Come è noto, io sono personalmente un fanatico delle virgole, degli zero virgola, annetto una particolare attenzione a questo. Sto leggendo il Danno di Dante dell'Inferno. Non so in quale bolgia e in quale postura stanno gli indovini, la quarta, e stanno in una postura anche particolarmente, cioè da riflettere, e comunque noi metteremo uno sulla crescita, più o meno, ma potrebbe essere anche un altro numero. Noi siamo costretti a prevedere adesso come sarà il 31-12 del 2010. Ed è nel dare i dubbi, c'è chi è obbligato e chi ci crede, noi siamo obbligati. Scusi, mi sono per aggiungere un numero decimale o decimale? Ho detto un numero, ho detto io non sono fanatico dei decimali. Un passo avanti piccolo è stato fatto nella direzione giusta, e noi in aggiunta abbiamo chiesto alla Commissione, che è competente, un resoconto su quanto ci spetta e che non ci sembra sia stato finora riconosciuto dai paesi che devono pagarci l'euro ritenuta. E io penso che dagli studi venga fuori che quanto è stato pagato alla Repubblica Italiana e meno di quanto ci compete in base alla direttiva europea, e quindi abbiamo chiesto, ho chiesto, I want my money back, vogliamo indietro i nostri soldi. Così il ministro Tremonti, devo dire, non so, è sempre esilarante, ma quando parla degli indovini, è tornato sul tema di chi fa le previsioni, il riferimento agli economisti, citando anche Dante, l'inferno, l'ottavo girone. Vabbè, Adriana Ceretelli, per concludere, fermo restando che Tremonti dice che insomma, la Repubblica Italiana deve avere altri soldi, ripeto, secondo le stime la Svizzera ha versato di euro ritenuta meno di un quarto di quanto avrebbe dovuto, quindi 90 milioni di euro invece che 360. Si è discusso dell'ipotesi di seguire Barack Obama e quindi la Casa Bianca con una tassa per i rischi presi dalle banche d'affari, cioè più aumenta l'esposizione finanziaria, il rischio preso, e c'è una tassa dello 0,15% in America, così come di avere una tassa armonizzata a livello europeo per i bonus dei manager? Se ne è discusso, ma non si è arrivata a nessuna conclusione, almeno ma per dai. Il momento. Come mai? Beh, perché tutto quello che riguarda la tassazione è un qualche cosa che si decide all'unanimità, e quindi le situazioni dei singoli paesi, anche le strutture fiscali dei singoli paesi sono molto diverse, e per il momento non si è ancora coagulato, diciamo, nemmeno il principio di un consenso. Ma questi sono processi comunque generalmente molto lunghi, ammesso che poi alla fine si arrivi al traguardo. Questo nulla vieta naturalmente che poi ogni singolo paese possa decidere di tassare, però l'armonizzazione o perlomeno la convergenza per ora è un traguardo ancora da raggiungere. Sì, certo che senza un'armonizzazione diventa impossibile, perché è chiaro che il bonus di un manager verrebbe tassato in un modo, potrebbe a questo punto usare un altro tipo di residenza, diventerebbe un elemento anche anticompetitivo tassare le banche d'affari in un paese e non nell'altro, insomma. O la decisione è unanime oppure non è. Grazie e buon anno, visto che ancora gli auguri non te li avevo fatti, ad Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles. Altrettanto, arrivederci. Allora, vedo che insomma tra i nostri ascoltatori c'è anche qualche appassionato di Dante, dell'Inferno. Volete sapere qual era il riferimento, qual è la punizione che Dante dà agli indovini, che ripeto, viste le varie dichiarazioni del ministro Tremonti, si riferiva anche agli economisti. Vi ho detto io non voglio fare l'indovino, la punizione nell'ottavo girone è anche pesante. Camminano con la testa rivolta all'indietro, proprio perché, questo è il contrappasso, in vita non avevano saputo guardare in avanti, indovini che avevano sbagliato le previsioni, chiaramente. Però non vorrei riaprire un tema, diciamo, che ci ha portato a avere anche l'astrologa sulla differenza tra economisti e indovini. È un tema molto caro a Tremonti, di cui si è occupato, devo dire, anche il Papa nel suo primo Angelus. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisone. Allora, prima di arrivare alla borsa, parliamo di un metallo, perché tale viene definito, l'oro, che ha fatto molto parlare di sé nell'anno che si è appena chiuso. Ricorderete, infatti, il 26 novembre, l'ultimo record dell'oro, 1195,13 dollari all'oncia. L'oncia equivale, prima che me lo chiediate, stavolta vi anticipo, a 28,35 grammi. Attenzione, anche qui, prima che mi contestiate, per il commercio dei metalli preziosi viene utilizzata l'oncia troy, che equivale a 31,1 grammi. Detto questo, a livello mondiale le vendite hanno avuto un certo arretramento, non solo per il prezzo dell'oro. Perché ne parliamo? Perché a Vicenza è in corso fino al 21 gennaio la 62esima edizione di Vicenza Oro First. È una delle principali mostre a livello mondiale dell'oro, anche perché l'Italia è il primo esportatore al mondo di prodotti in oro, con vendite che valgono 5 miliardi e mezzo all'estero. Vicenza, Arezzo, ma anche Alessandria, queste tre province da sole fanno il 75% dell'export italiano dell'oro. A livello mondiale c'è stato un meno 18% nelle vendite finali nel 2009, con l'India che ha sofferto moltissimo, meno 42%, Medio Oriente anch'esso molto male, meno 34%, Stati Uniti meno 17%. Indovinate un po' dove invece l'oro è aumentato come vendite? Beh, come sempre il segno più si vede in Cina, più 12% e anche più 8% in Cina nella gioielleria. Sarà la Cina a salvarci se avanti questo passo. Comunque, presidente della Fiera di Vicenza, Roberto Ditri, buonasera. Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, voi che ospitate una delle principali fiere a livello mondiale, la prima comunque dell'anno dedicata all'oro, avete anche il posto della situazione italiana, perché ripeto, sono 5 miliardi e mezzo quanto esportiamo di oro, non è poca roba. Come è andato il 2009? E soprattutto perché? Come è andato il 2009? L'ha detto un po' lei, il segno è negativo, però diciamo che non dobbiamo fasciarci la testa, ma dobbiamo, quello che stiamo facendo, soprattutto in Vicenza Oro First, stiamo reagendo, tutto il settore sta reagendo, direi, in maniera molto compatta e positiva. Ma il motivo è l'alto prezzo dell'oro, il record che ricordavo, oppure il crollo della domanda per via della crisi? Diciamo che la combinazione di tutte e due le cose, ma soprattutto la contrazione del mercato è stata significativa, basta vedere i dati che lei ha puntualmente riferito. Ecco, secondo me questo però fa parte del passato, noi dobbiamo guardare avanti, proprio Vicenza Oro First sta guardando avanti, questa è la cosa principale in questo momento. Allora, dov'è che sta guardando? Voglio dire, tradotto, da dov'è che arrivano i segnali più interessanti? Già citavo il dato della Cina, che per voi è anche una concorrente, però non è solo un mercato di sbocco. Dov'è che le cose si muovono? La concorrenza fa bene, abbiamo la concorrenza in Cina, abbiamo concorrenza in Turchia, ne abbiamo concorrenza in India, Diciamo che noi per il 2010 riteniamo di prevediamo a livello globale una certa ripresa del mercato, che comunque ovviamente sarà legata all'andamento dell'economia nelle diverse aree del mondo. Lei citava prima che già la Cina ha avuto una contrazione minore, la Cina, soprattutto i paesi in questo momento, India, il BRIC, senza, io dico senza la R perché la Russia è ancora un po' indietro, diciamo stanno, sono in recupero. Sono timidi, c'è uno segnale di ripresa, come questo si porterà sul resto del mondo, ecco, questo sarà tutto da vedere, da seguire durante l'anno. Dal Medio Oriente arriva qualche segnale in più, perché insomma il Medio Oriente ha sofferto anche per un petrolio a 38-40 dollari, adesso che il petrolio viaggia stabilmente a 75-80, oppure invece lì i problemi, Dubai, ma non solo, si fanno sentire anche nell'acquisto di oro, quello è un grosso mercato per l'Italia. Sì, esatto, si vedono, diciamo, dei segni positivi, anche se tutti quanti hanno un po' paura, sa, delle bollette, dopo la bolla finanziaria, la bolla immobiliare, carte di credito e cosine del genere, tutti sono piuttosto prudenti, ecco, diciamo, però sa, noi stiamo vedendo un momentino, Vincenzo, oro, dove ci sono un sensibile aumento di presenze di operatori. Io ritengo che questa possa essere interpretata con un maggior interesse per il prodotto oro gioielliero, sono da tutte le parti del mondo, e ovviamente per acquistare, perché penso che non venga da tutte le parti del mondo solamente per vedere una manifestazione. Ovviamente come lei può ben capire, non è corretto trasformare ancora queste indicazioni, certo. Anche se ripeto che c'è, io ho visitato moltissimi stand. Io ho notato, non parliamo ancora di ottimismo, eccetera, però una certa positività nei discorsi, sempre pacati, ma sempre più positivi rispetto al passato. Però non è corretto al momento trasformare queste indicazioni in previsioni certe degli ordinativi, per quali vogliamo fare un po' il punto a fine Vincenzo Oro Fest. Questo vale anche per l'Italia, cioè i segnali che arrivano dall'Italia, dal consumo interno italiano? Sì, questo direi un po' a livello globale. In questo momento sarà difficile analizzare puntualmente tutto, cosa che faremo fra due giorni, però ripeto, visitando i vari stand, ne ho visitati tanti, direi che nella globalità ho captato della positività, ecco, del non, ecco, oppure meglio ancora della non negatività, insomma, quindi pervade un certo ottimismo in questo momento, seppur moderato. Va bene, vedremo, io ve lo auguro, anche perché non solo il mattino all'oro in bocca, ma insomma vi auguro in bocca al lupo per tutta la manifestazione e poi anche per l'andamento del settore. Perché direi che il settore sta reagendo comunque molto bene. Benissimo, questo ci fa piacere, grazie al presidente della Fiera di Vicenza, e adesso passiamo ai mercati finanziari. Solo per dare la chiusura, poi commento dopo le informazioni per chi è in viaggio, più 0,80% Milano, più 0,80% anche Parigi e più 1% Francoforte. L'America guadagna lo 0,7%, Londra ha guadagnato meno di altre borse lo 0,4%, euro a quota 1,426. Questa mattina l'Asia, la volete, ve la diamo, più 1% Hong Kong, meno 0,80% a Tokyo, complice anche Japan Airlines. Allora, la giornata di borsa, l'abbiamo detto alla chiusura, i migliori titoli oggi sono soprattutto quelli bancari, anche se il migliore in assoluto tra quelli a maggiore capitalizzazione è Parmalat più 3,4, Autogrill più 2,80, poi Unicredit più 2,3, UBI Banca più 1,7 come Mediobanca, bene anche Buzzi Unicem più 2,2, A2A più 1,6, Generali 1,5%, Monte dei Paschi l'1,2, Intesa l'1,1% di rialzo, di nuovo positiva Bulgari e anche Telecom Italia e Terna l'1% di rialzo cada una, come Atlantia, il Banco Popolare e Mediaset sempre 1% di rialzo. Tra chi ha perso, Italcementi meno 1,1, Prismian meno 1, Finmeccanica meno 0,80, Popolare di Milano meno 0,6, Eni mezzo punto percentuale di calo. I peggiori, Antiche Pelletieri perde il 4,93 e Green Vision il 2,82%. Paolo Paronetto, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. E Green Vision, ecco, la società del gruppo Burani, in cui ho avuto fare anche una polemica, una spy story, in cui praticamente veniva spiata la controllata? È la società del gruppo Burani, esattamente. Ecco perché. Sì, infatti è come gli altri titoli del gruppo Bovani in questi giorni è un po' sulle montagne russe in attesa e che si capiscano i destini del gruppo, in particolare Antichi Pelletieri che citavi tu, oggi è stata uno dei peggiori, ma ricordiamo che recentemente era salita molto proprio sulle voci che danno per imminente, almeno per Antichi Pelletieri, un accordo con le banche sulla ristrutturazione del debito, accordo che invece non si hanno ancora notizie per la controllante Mariella Bovani, che ricordiamo in borsa è ancora sospesa a tempo indeterminato. No, anche perché lì ci sono 500 milioni di debiti in tutto, per cui insomma non è una situazione. E ricordo che il PM Maurizio Romanelli ha chiesto il fallimento, la procura di Milano in realtà ha chiesto il fallimento per la holding di controllo, e poi la citazione diretta a giudizio anche del presidente Walter Burani, insomma una vicenda che diventa più giudiziaria oltre che finanziaria. Andiamo invece ai titoli a maggiore capitalizzazione, bene tutte le banche. È stata, a dire la verità, una seduta a due facce, una mattinata negativa e poi dopo i conti di Citigroup gli ordini di acquisto sono tornati sul comparto bancario. In questo momento, cioè, alla chiusura, il sottoindice delle banche in Europa ha guadagnato mezzo punto percentuale e circa un punto sta guadagnando Citigroup a Wall Street. I conti sono stati in linea con l'attesa e questo è stato letto positivamente dal mercato, soprattutto dopo che venerdì i conti di un altro big come JP Morgan per alcuni aspetti, soprattutto del bilancio, avevano penalizzato invece le borse bancario, in particolare ha guadagnato Unicredit, come ricordavi tu, più 2,35%, ma anche Mediobanca e UbiBanca, entrambe più 1,75%. Allora, Autogrill e Telecom di nuovo bene, però anche Parmalat, quindi facciamo i primi tre, Parmalat, Autogrill e Unicredit. Per quanto riguarda Parmalat, il titolo ha confermato oggi il rialzo che aveva già fatto segnare ieri dopo una settimana abbastanza pesante. Oggi Parmalat ha guadagnato il più 3,38%, ricordiamo che di recente aveva risentito della salutazione della moneta del Venezuela, che è paese in cui Parmalat è molto esposto e che secondo gli analisti potrebbe pesare sul business della società, anche se la stessa Parmalat ha confermato i target 2009. E anche in seguito a questa svalutazione oggi il titolo ha recuperato terreno e tra l'altro a metterlo sotto i riflettori sono state anche alcune indiscrezioni di stampa che hanno rilanciato l'intenzione del gruppo di entrare nel settore della nutrizione dell'infanzia, un'iniziativa che potrebbe sviluppare il business della società che è stata accolta ancora una volta positivamente dal mercato. Per quanto riguarda invece Autogrill, gli operatori qui segnalano come elemento positivo il rafforzamento di oggi del dollaro nei confronti dell'euro. L'euro in particolare ha risentito del dato dello ZEV tedesco, dell'indice ZEV tedesco, che è stato peggiore delle attese e quindi il dollaro guadagnato terreno. Ovviamente Autogrill, essendo molto esposta nei confronti degli Stati Uniti, beneficia del rafforzamento della valuta americana. Allora, quindi Autogrill è sulla scia anche di tutti i titoli che hanno buona parte del fatturato in dollari. Telecom, non Unicredit che abbiamo già spiegato con i conti di Citigroup, ma Telecom di nuovo positiva, più 1,6%, più 1,06% ci mancherebbe. E a questo punto anche Fiat, perché sale di un mezzo punto percentuale, ma c'è qualche notizia tra mercato e economia vera e propria? Credo. Per quanto riguarda Telecom sono molti in questo periodo di nodi da sciogliere, ricordiamo ovviamente che Telecom Argentina, che ancora non si capisce come sarà risolta la notizia, le ultime notizie parlano del governo argentino che potrebbe addirittura togliere la licenza operativa a Telecom Argentina se non si dovesse risolvere il contenzioso tra il gruppo italiano e l'antitrust del paese sudamericano, però soprattutto in borsa, come è già successo ieri, il titolo è stato sostenuto dall'ipotesi di un'operazione con Telefonica, che è stato ovviamente già nelle pagine dei giornali nelle ultime settimane, ma è stato rilanciato dalle parole del ministro spagnolo Miguel Sebastián, che ha auspicato una reciprocità nei rapporti finanziari tra i due paesi, ricordando le operazioni Enel Endesa e Mediaset con Prisa, e questo ovviamente il mercato lo legge come un invito ad aprire Telecom a un'operazione relazione con Telefonica. Per quanto riguarda invece Fiat, che come ricordavi tu ha guadagnato lo 0,5%, il mercato legge positivamente l'ipotesi che si possa risolvere il nodo di Termini Imerese. Ci sono oggi... Ma c'è la voce di un'accordata indiana, no? Sì, esattamente, un'accordata tra il gruppo di Simone Cimino, il gruppo di private equity Cape Natixis e la società italiana Reva, tra l'altro in discrezioni confermate dallo stesso Cimino, che sta preparando un'offerta per Termini Imerese dove produrre insieme appunto al gruppo indiano Reva l'auto elettrica nello stabilimento siciliano. Interessante. Questo ovviamente per Fiat almeno significherebbe risolvere questo nodo che sta portando anche danni anche dal punto di vista dell'immagine e ricadute sociali, quindi questo è stato letto positivamente dal mercato. Grazie Paolo Paronetto. Manca forse i migliori della giornata: Mondo TV più 15%, poi Indesit più 7,5%, Mondo Home Entertainment più 7%. Ma c'è qualcosa sul settore TV, perché due titoli così forti, Paolo? Sì, è proprio Mondo TV che ha siglato un contratto con Giochi Preziosi per la produzione di una serie di cartoni animati basati su alcuni prodotti proprio della Giochi Preziosi, quindi tutti i titoli del gruppo guadagnano molto terreno oggi in borsa. Centrale del Latte più 6,2%, risanamento più 4,6%. Grazie di nuovo Paolo Paronetto, e adesso immagino, suscitando anche alcune sms di protesta come sempre avviene quando parliamo di questo tema, ci occupiamo di energia nucleare. Oggi in un convegno importante la Presidente Confindustria Marcegaglia e il numero uno di Enel, che è quella società incaricata di sviluppare i siti nucleari, hanno discusso delle ricadute sull'indotto. Cosa vuol dire? Vuol dire quanto beneficerà la nostra industria in termini di lavori, di appalti, chiamateli così, dalla realizzazione delle centrali nucleari. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, vedo un messaggio su Autogrill. Autogrill è esposta con gli Stati Uniti, non c'entra niente con il nucleare, perché metà, se non ricordo male, del fatturato lo realizza in dollari, gestisce tantissime catene dentro gli aeroporti americani, quindi gestisce la ristorazione negli aeroporti americani. Torniamo al nucleare. Allora, nucleare, sappiamo l'obiettivo del governo è arrivare entro il 2030 al 25% dell'energia italiana fornita da centrali nucleari. Attualmente il 40% ce lo dà il petrolio, il 36% il gas, il 9% il carbone e le rinnovabili solo un 7%. Secondo la Presidente Confindustria Marcegaglia, gli investimenti varranno complessivamente 30 miliardi di euro e se le varie imprese italiane riusciranno a fare il sistema, la ricaduta, cioè l'indotto di questi investimenti dovrebbe valere circa 70%, quindi 20 miliardi. Qui parliamo di un piano di investimenti di 30 miliardi di euro. Se noi saremo in grado, come vogliamo fare, di creare una filiera di imprese italiane qualificate che fanno innovazione tecnologica, che hanno sapere sul nucleare, noi potremo avere circa il 70% di questi investimenti che vanno alle imprese italiane. Allora, in un momento di crisi come questa è un'opportunità di crescita, è un'opportunità di creare posti di lavoro. Come ho detto, noi pensiamo che sulla politica energetica il nucleare sia un'opzione importante, ma stiamo anche molto lavorando sull'efficienza energetica e sulle rinnovabili, quindi in una logica a 360 gradi, ma oggi quello che è molto importante sottolineare è che c'è stata una risposta da parte delle imprese italiane straordinaria, che nemmeno noi attendevamo, quindi questo a dimostrazione che le imprese italiane sono pronte, vogliono qualificarsi, vogliono migliorarsi, vogliono fare innovazione tecnologica, vogliono tornare ad avere appunto una tecnologia che per le scelte fatte in passato abbiamo sostanzialmente lasciato da parte per 20 anni, anche se va sottolineato che già alcune imprese, circa una cinquantina di imprese, stanno già collaborando con Enel su una serie di progetti che ci sono. Quindi grande possibilità per il mercato interno, ma anche grande opportunità di internazionalizzazione, perché molti paesi europei e anche paesi emergenti stanno lavorando, stanno facendo investimenti sul nucleare. Quindi questa è una grande opportunità di sviluppo, di crescita per le imprese italiane. E la Presidente Confindustria ha anche detto che spesso in Italia sul tema del nucleare si assiste a una serie di dibattiti superficiali e demagogici. Il numero uno dell'Enel Fulvio Conti ha spiegato i vantaggi, ma ha anche intervenuto sui siti. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dopo aver parlato dei vertici Eurogruppo Ecofin a Bruxelles, il caso Greco, ma anche l'ipotesi per ora rinviata di una tassazione sulle esposizioni finanziarie, di un'armonizzazione delle tasse sui bonus, la borsa, ricordo un rialzo dello 0,8% oggi a Milano, e aver anche toccato il tema dell'andamento dell'oro. L'Italia è il primo esportatore al mondo e si è inaugurata ieri l'edizione annuale di Vicenza Oro. Eravamo rimasti al nucleare, il convegno di oggi, Confindustria Enel, avete sentito la ricaduta, l'indotto come si chiama in gergo, vale circa 20 miliardi di euro se le industrie italiane sapranno fare sistema e restare in filiera. Vedo molti messaggi critici sul nucleare al 349-238-6666, va bene, ci stanno anche quelli. La puntata oggi non è sul nucleare, quando arriveremo ai piani operativi, ai siti, dedicheremo molte puntate anche su quello. Non trovo che siano in contrapposizione, lo dico a chi scrive, gli investimenti sulle biomasse con quelli sul nucleare. Si punta ad arrivare nel 2030 a una produzione del 25% dell'energia fornita al nucleare, quindi c'è spazio anche per aumentare, oltre che essere un obiettivo di Kyoto 2, anche le fonti rinnovabili. Comunque, sui siti, dopo che Fulvio Conti, numero uno dell'Enel, che è il gruppo incaricato di questo progetto, aveva spiegato i vantaggi del nucleare, ha detto qui prematuro parlare, ci sono solo le azioni. Ricordo che alcune indiscrezioni di stampa nelle settimane scorse avevano individuato in Trino Vercellese, provincia di Vercelli, Caorso, Piacenza, Monfalcone, Gorizia, Chioggia, Venezia, Montato di Castro, Viterbo, Oristano in Sardegna, Termoli in provincia di Campobasso, Scanzano Ionico, Matera e Termini Imerese, Palermo e Palma Agrigento i siti possibili. Sentiamo su questo il numero uno dell'Enel, Fulvio Conti. Parlare di siti oggi è ancora assolutamente prematuro, perché come prescrive la legge questi siti dovranno essere identificati dopo che sia fatto chiarezza sui criteri che dovranno essere alla base della definizione di questi processi di selezione, e che ci sia un'autorità per l'energia, per la sicurezza dell'energia nucleare, che dovrà appunto definire più concretamente i parametri di riferimento per questi criteri. Quindi stiamo parlando, in assenza di legislazione, di illazioni, e io non parlo di illazioni, parlo di sostanza. Sono convinto che questo sarà un problema risolvibile con la capacità che avremo tutti insieme, e grazie anche a Confindustria e alla sua partecipazione a questo processo avremo una maggiore capacità di persuasione, perché dovremo parlare con fatti concreti, con i dati scientifici, con le evidenze tecniche. Ricordo che da quando siamo usciti dal nucleare noi, nell'87, tutti gli impianti nucleari per l'energia elettrica al mondo hanno lavorato per 13.000 anni continuativi senza incidenti. Questa è dimostrazione di quanto può essere sicuro un impianto nucleare. Così il numero dell'Enel, Fulvio Conti. Dico a chi scrive con offese varie, dandoci degli assassini, insomma, vediamo di parlare di tutto come sempre sui fatti, mettendo, lo faremo più avanti, in contrapposizione anche visioni diverse, ma insomma, inutile avere ideologie. Vale 16-18 miliardi, varrebbero 16-18 miliardi le quattro unità di quattro centrali, stiamo parlando infatti EPR. EPR vuol dire è la generazione di reattori europei ad acqua pressurizzata, nucleare di terza generazione, più efficiente degli altri reattori, più sicuro. Dovrebbe garantire l'assenza di fughe radioattive anche in caso di fusione del nocciolo, utilizza uranio arricchito al 5%, produce però scorie come i reattori di generazione precedenti. Dicevo, queste quattro unità che Enel costruirà assieme a EDF, che ha il know-how come si dice in gergo, dovrebbero valere come investimenti un totale di 16-18 miliardi di euro. Nel frattempo per oggi Le Figaro, il quotidiano francese, cita fonti riservate e dice che il cantiere per il reattore nucleare EPR di Flamanville ha accumulato un forte ritardo, non potrà entrare in funzione prima del 2014. Il ritardo deriverebbe in primo luogo dal fatto che si tratta di un prototipo, per cui è difficile stabilire un calendario preciso. E adesso invece cambiamo radicalmente tema, ci occupiamo di settore alimentare, partendo dalla chiusura dell'operazione Kraft Cadbury e poi per arrivare ai prezzi della pasta. Oggi denuncia anche di Mister Prezzi, ha detto insomma la pasta costa un 4% in meno al consumatore e un 23% in meno alla produzione. Comunque, Leonardo Maisano in collegamento con noi da Londra, dove è corrispondente del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, Leonardo, ha approvato il CDA di Cadbury, l'offerta che è arrivata da Kraft, si chiude quindi una vicenda che stiamo raccontando da fine 2009, 19 miliardi di dollari, con qualche preoccupazione da parte di Gordon Brown. Sì, con preoccupazione da parte di Gordon Brown, perché lo stesso presidente di Cadbury ha confermato che tagli occupazionali saranno inevitabili, e anche se non sono ancora stati quantificati. In realtà, proprio sulla questione dell'occupazione, era stato uno dei cavalli di battaglia di Cadbury per resistere alla prima offerta di Kraft, che poi però è stata migliorata sensibilmente, perché c'è una differenza di quasi il 15% fra l'offerta originale e la chiusura di questa notte, questa mattina, e quindi, come dire, le urgenze occupazionali hanno preso in secondo piano, diciamo, di fronte all'opportunità dell'operazione. Ecco, Leonardo, perché comunque Cadbury ha accettato? Voglio dire, non era scomparsa l'ipotesi Ferrero con un appoggio americano e anche un appoggio di banche italiane, e come tu ricordavi Kraft ha aumentato l'offerta di 2 miliardi di dollari, perché all'inizio era 17 miliardi di dollari e adesso siamo arrivati a 19 miliardi, ma insomma voleva a tutti i costi, era solo un problema di prezzo, non di scelta strategica. Sembrava essere un problema di scelta strategica, tant'è vero che il management di Cadbury è uscito facendo capire che con Hershey e in qualche misura anche con Ferrero, anche se non aveva mai fatto i nomi, c'era, come dire, una filosofia, uno spirito, in particolare con Hershey, che univa e che rendeva più agevole un matrimonio del genere, mentre con Kraft le cose non erano in questi termini. In realtà il vero grande player in tutta questa partita è sempre stato Kraft, perché Hershey, soprattutto da sola, altro discorso se Hershey fosse associata con Ferrero o con altri, ma Hershey da sola, che peraltro deve ancora parlare, insomma non sembra avere la forza per sostenere un'offerta di questo genere. Quindi queste preoccupazioni, come dire, di analoga filosofia si sono ridimensionate di fronte a un'offerta alla quale gli azionisti non avrebbero potuto dire di no. Il management lo sapeva, perché si è sempre detto che se fosse arrivato sugli 850, anzi la forchetta era 800-850 pence, quindi siamo nella parte più alta della forchetta ipotizzata dagli analisti, e quindi, come dire, un deal migliore nella situazione veramente per gli azionisti di Cadbury era improbabile. Allora, io ricordo che Kraft è il più grande gruppo alimentare americano al mondo, è il secondo al mondo comunque dopo la Nestlé, 50 marchi e 100.000 impiegati e dipendenti, ma Cadbury non è da meno, nel senso che ha 46.000 dipendenti e praticamente ha chiuso il 2008 con un fatturato da 6 miliardi, più di 6 miliardi di euro. Grazie a Leonardo Maisano in collegamento con noi da Londra. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Allora, se ne è già occupata questa mattina Deborah Rosciani, che in mattinata ha intervistato a Soldi d'Intorni Renato Bonaglia, presidente di Unione Alimentari. Stiamo parlando di un tema che più volte abbiamo toccato. Il 2009 si è chiuso con crolli verticali nei prezzi della produzione agricola, i prezzi all'origine, e mi riferisco a 33% in meno il pane, latte meno 30, carote meno 70, uva meno 20, pesche meno 53, e invece i prezzi al consumo o non sono calati o sono calati di pochissimo. Oggi la volta della pasta, e se appunto Bonaglia, presidente di Unione Alimentare, ha detto attenzione, non è solo il settore pasta, è tutta la filiera che non ha prezzi incoerenti. Mister Prezzi, ossia il garante per la sorveglianza dei prezzi, Roberto Sambuco, oggi, dopo aver annunciato che l'indagine sulla filiera della pasta è partita, ha detto, secondo i dati che abbiamo elaborato, quindi dal Ministero, rispetto al novembre del 2008 a novembre del 2009, i prezzi della pasta al consumo sugli scaffali sono diminuiti del 5,7%. Ma il calo è stato del 23% per quello che riguarda il costo del frumento duro. E se consideriamo che è un meno 19% il prezzo dell'ingrosso, qualcosa non torna. Tra l'altro gli agricoltori denunciano che con la speculazione e la distorsione della filiera, con il crollo dei prezzi pagati agli agricoltori per il frumento duro, c'è stato un calo delle semine del 25%, cioè uno su quattro non ha seminato, per quello che riguarda le semine di frumento duro destinato alla produzione di pasta italiana, lo dice oggi la Coldiretti. Nel giorno in cui si segnala che l'Italia è, dopo l'Ungheria, il paese che ha avuto il crollo più forte dei prezzi alla produzione agricola, meno 11% sul 2008 in media, e dopo che appunto non si riesce a capire come mai non vi sia una corrispondenza minima tra andamento del prezzo della materia prima e andamento del prezzo del prodotto finale. Senza criminalizzare nessuno, ci mancherebbe, ma con la solita chiarezza, ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente dell'Unione Industriale Pastai Italiani, Massimo Menna. Buonasera. Grazie a voi e buonasera. Lei rappresenta oltre 100 pastifici, 8.000 dipendenti. Allora, presidente Menna, passi per il fatto, passi anche il fatto che il ricarico sul prezzo del bene, e quando arriva poi a diventare pasta, è del 400%, cioè il grano costa 18 centesimi al chilo, la pasta costa 1,4 euro al chilo. Passi questo, però lei mi deve spiegare come mai, se io guardo il grafico della differenza di costo tra il prezzo della produzione, il frumento, e il prezzo della pasta, questa differenza, che già esisteva, si è ampliata tra il 2008 e il 2009, per cui si è arrivati a 1,65 per la pasta, 1,74, con un prezzo del frumento che continuava a calare, è arrivato a 18 centesimi, poi un po' risalito a 23 centesimi. E da lì il mister Prezzi dice, insomma, meno 6% al consumo, ma all'origine meno 23%. Cos'è che manca? Visto tutto, lei ha parlato dell'agricoltura, direi che stiamo facendo un minestrone di dati, che però, diciamo così, bisogna cercare di mettere in ordine. Ma al di là di tutto, pasta e fagioli, più che minestrone, dai, un bel minestrone, insomma, abbiamo tutti i dati possibili da girare, ma detti da chiunque, insomma. Ma diciamo questo, innanzitutto mi permetta solo di dire una cosa, che il problema pasta non esiste. Poi il problema pasta, la sento un po' male, il problema pasta non esiste? Il problema pasta non esiste, no, perché la pasta certamente non è il problema del consumatore, no, perché il consumo della pasta è aumentato di circa il 2% negli ultimi 18-24 mesi, con il costo medio di pasta 1,30 euro, con 13 centesimi si ha un piatto di 100 grammi di pasta. No, no, ma io lo so che la pasta costa poco, faccio la spesa e cucino, e magari la pasta è anche aumentata come consumo, perché con la crisi uno mangia più pasta e meno caviale. Però io vorrei capire una cosa: com'è che il prezzo fa meno 5,7% sullo scaffale e fa meno 22% alla produzione? Diciamo, a fare una semplice riflessione, mi permetto di rendere. Prego. Questi dati 5% 22, a parte che i dati non sono mai così puntuali, no? Perché c'è non è che l'approvvigionamento si fa oggi, io oggi compro la semola, compro il grano, il mulino oggi compro il grano, mi vende la semola, io faccio la pasta e la do al supermercato, non si fa tutto così in contesto. Però siccome abbiamo tre minuti, lei mi deve dire qual è la vostra giustificazione. Il 5% è su un prezzo al pubblico di 1,30 euro, il 23% è sul del prezzo del grano, che costa non 1,30 euro, ma 20 centesimi. E non si trasferisce quello? Valori assoluti, valore assoluto, stiamo parlando di cifre, tra virgolette, raffrontabili, al di là del fatto che la pasta non è fatta solo di semola, cioè è fatta solo di semola di grano duro, però poi ci sono tanti altri componenti, e la filiera non è fatta solo dai pastai, ci sono tanti altri componenti, no? C'è il mugnaio, c'è lo stoccatore. No, allora, grano. Mi scusi, però vediamo di capire, perché mi sembra un po' di vivere un déjà vu quando parlo con l'Unione non pastai ma petrolieri italiani. Allora, aspetta. O lei mi dice che il prezzo della pasta incide solo per poco, e da lì andiamo a derivare, per esempio, il prezzo del petrolio incide per il 30% sul prezzo della benzina finale. Però io voglio capire, se il prezzo d'origine cala e tutti gli altri prezzi restano invariati, dovete dimostrare, mentre io ho visto prezzo d'origine meno 22, prezzo all'ingrosso meno 18, e poi se arriva invece al prezzo sullo scaffale, meno 5. Allora, all'ingrosso... Forse non mi sono spiegato. Se noi facciamo 22% di 20 centesimi, no? Sono 4 centesimi, 5 centesimi, giusto? Se facciamo il 5% di 1,30 euro, che è il prezzo al pubblico, sono 6 centesimi e mezzo. Stiamo parlando di grandezze simili in termini di centesimi. Sì, ma mi scusi, io forse sono un po' duro, ma anzi sicuramente sono un po' duro, però se fa meno 18... Io pago in euro, non pago in percentuale quando compro la tavola. Sì, no, ho capito, ma se fa meno 18 all'ingrosso, ok? E lì la pasta c'è già, è già stata lavorata, il mugnaio ha già fatto il suo lavoro, e la macina pure, e vabbè. Com'è che da meno 18 all'ingrosso fa meno 5 quando è sullo scaffale? Meno 18 all'ingrosso, che intende all'ingrosso? Perdoni, sono i dati che sono stati diffusi oggi anche da Mister Prezzi. Meno 18, gli riprendo subito i prezzi all'ingrosso, meno 5,7%, meno 18,9% all'ingrosso, meno 23% all'origine, meno 5,7% sullo scaffale. Ma c'è per l'ingrosso, adesso non c'è da sotto mano, perché se per l'ingrosso si intende il prezzo a cui io compro la semola? No, penso all'ingrosso, la pasta consuma l'ingrosso, io penso il prezzo... Cioè il prezzo a cui noi pastai vendiamo? Penso proprio di sì, l'ingrosso e cos'è? Allora adesso non glielo devo spiegare io, però comunque... Allora è colpa dei commercianti? No, non voglio dire colpa dei commercianti, ma non credo che il dato sia questo qui. Vabbè, adesso allora... non ce l'ho sotto mano, ripeto, perché c'è un vero turbillon di dati, no? Allora, per levare dal rimbalzo del turbillon di dati, facciamo così... Lei senta anche il garante per la sorveglianza dei prezzi, Roberto Sambuco, che oggi ha diffuso lui questi dati. I commercianti negano, non c'è nessuna anomalia, siamo disposti a confronto col garante, sta a vedere che a questo punto la colpa è nostra. Io, Presidente, vista la disponibilità, la rinvito a questo punto, quando avete verificato come mai ci sono questo meno 5,7 alla produzione, meno 18,7 all'ingrosso e solo meno 5. Meno 22 alla produzione, meno 18 all'ingrosso e solo meno 5 sugli scaffali, così diciamo vediamo anche di dare una risposta più coerente. La ringrazio per ora, perché questi dati noi li citiamo dal garante, Mister Prezzi, garante appunto dell'Osservatorio Prezzi. Grazie per ora al Presidente dell'Unione Industriale Pastai, prego. Massimo, prego. Menna. E vabbè, allora, vedo che uno scrive, lei se la prende con i pastai e vuole il nucleare, è un pazzo. Allora, si preoccupa della pasta e vuole il nucleare, va bene, allora continuiamo così. Di nucleare parleremo in tutti i modi, quando ci saranno dei progetti esecutivi, ripeto, massima apertura a tutti gli ospiti, chi è pro, chi è contro, l'importante è ragionare di fatti. Per ora è veramente tutto, da Sebastiano Berisoni, auguro di una buona serata. Ci sentiamo domani dalle 17 in poi.